Lascia che nel mio cuore ti odi, che io possa pensare di farti a pezzetti, che io possa avvitare questo grido ai tuoi occhi, che ti possa ammalare dei miei sentimenti, che ti possa svegliare al mattino dopo, più sincero e felice che ti venga un colpo quando mi incontri giù, lontano dai tuoi guai. Lascia che il rimorso ti tocchi con la lama affilata dei suoi pentimenti, nella tela scucita dove affondi i pennelli con i quali dipingi i tuoi giorni più lieti, che ti cada il bicchiere pieno di rimpianto e che possa allagare tutto il pavimento e di rosso del sangue tuo, che non si tolga mai. Lascia che il tuo viso si specchi e che per ogni ruga scorra un fiume di anni, e sia inutile ormai sciacquarne i ricordi, camuffarne i dubbi con matite ed ombretti, e che sia sempre sera e ogni sera Natale, e tu albero triste, stanco da dobbare, o anzi meglio una TV che non si accenda mai. Lascia che i tuoi lunghi capelli te li possa imbrogliare il mio odio che è il vento, la mia rabbia che è il mare, il mio sdegno che è fuoco. Lascia che io sia solo sotto ad aspettare in uno splendido cielo che io solo conosco, e che tu sia una stella il 10 di agosto, e che lenta cade giù, più lenta brucerai. Lascia che il sorriso ti ignori, io ti rendo il dolore, così siamo pari, che il vestito ti cada insieme ai tuoi occhi, che i miei lunghi racconti non sono finiti, e finché sarai scena dovrei recitare una lunga commedia che non ha finale, il sipario che scende giù, nessuno applaudirà.